24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qui, buongiorno cari ascoltatori, ci siamo anche oggi, sono le 6:32 minuti e siamo in diretta fino alle 9 come di consueto. C'è il nostro alpino Peter Bescapè in regia, c'è la nostra Miriam Lucchetti in redazione e come sempre... But please relax. Ovviamente, anche se siamo qua, cerchiamo di svegliarvi col nostro bar intanto, la nostra saracinesca si alzi, il bar è aperto ufficialmente. Un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Anche dall'America, ma ce lo offre il caffè Nicole Minetti come sempre. E ce lo offre e lo offre oggi. Intanto ha un grandissimo ritorno Paolo Del Debbio, buongiorno. Buongiorno Paolo. Bene, Paolo Del Debbio conduce Quinta Colonna, un programma che sta facendo uno straordinario successo su Rete 4 il lunedì e che sente, sonda gli umori delle piazze, gli umori degli italiani, che sono umori Del Debbio da forconi, sì. Diciamo la verità. Abbastanza. Saluto anche lui, un gradito ritorno. Che è caduta la linea? Eccolo, adesso lo recuperiamo. È Antonio Taglia, che è un corrispondente dell'AGI dalla Cina, anche se si trova in Italia in questo giorno, perché in Cina, tra l'altro, tra una settimana si vota. Buongiorno. Eccolo qua, Antonio. No, lì il voto proprio non è una cosa molto molto azzeccata. Antonio, no, ecco, tra una settimana c'è il congresso del Partito Comunista Cinese, viene nominata la nuova leadership che guiderà il paese per 10 anni. È stato un riflesso democratico il mio, chiedo venia. Per attenzione, me... però a dirlo lì Sì, infatti, io sto qua in Italia al calduccio dentro uno studio, non penso che mi vengano a prendere, non lo so, almeno no, voglio sperare. Eccoci qua, allora voglio farvi ascoltare, visto che parliamo oggi, c'è anche un articolo molto interessante sul Corriere della Sera che parla di tutti i divieti che già sono pronti in Cina per prepararsi a questo evento, ma si vota tra meno di una settimana anche in America. Ma avete sentito cosa ha detto Romney dell'Italia? Sentiamolo in originale. A un certo punto, in pratica, ha detto: se votate Obama, facciamo la fine dell'Italia. To ask yourself, is America on the road to Greece? Are we on the road to economic crisis, as you're seeing in Europe, in Italy, in Spain, and other forse parts si of the capisce, world? Eh? If we keep on spending $1 trillion, se avete un po' di dimestichezza con l'inglese, ma insomma siamo in una crisi, finiremo come la Spagna, la Grecia, l'Italia. Poi ha fatto uno spot, vanno moltissimo gli spot elettorali, in cui ha accusato Obama, questo ve lo dico così poi se capite l'inglese magari traducete meglio, Obama ha venduto la Chrysler agli italiani. Obama took GM and Chrysler into bankruptcy and sold Chrysler to Italians who are going to build Jeeps. Eccolo qui, insomma Del Debbio, rischiamo di finire come l'Italia, ha detto Romney. Che bello spot che c'è, che bello sapere che abbiamo questa reputazione da parte di uno dei candidati alla presidenza. No, però dice due cose tra di loro, diciamo, abbastanza, no, tra di loro contraddittorie. Romney bisognerebbe ci pensasse, perché da una parte dice finite come l'Italia, avete sentito, ha detto per cosa? Per il deficit, sì, no? Cioè sì, per la spesa pubblica. E lì forse qualche motivazione, diciamo, non è che proprio ha detto qualcosa di sbagliatissimo, cioè bisogna stare certi, perché loro con questi economisti americani, la Krugman eccetera, ritengono che nei momenti di crisi è il momento di spendere di più, e infatti lo stanno facendo. Non so dove porta poi quella cosa lì, eh? Questo bisognerebbe vestirli, anche tutti questi economisti americani che sostengono che questo, che sarebbe anche questo il momento di un'Europa di spendere di più, cioè il momento della crisi in cui si spende e non il momento in cui va bene. E questo, però poi da liberista eccetera dice ha venduto la Chrysler Italia. La Chrysler, diciamo, se uno l'ha venduta vuol dire che c'è qualcuno che l'ha comprata. Si è rilanciata, infatti, si è rilanciata. Questione di mercato, allora ti va bene il mercato o no? Cioè un po' di protezionismo, un po' di liberismo stanno male insieme. No, ma è interessante poi, perché poi Antonio, il dibattito, non so se dalla Cina, anche se adesso sei in Italia, ma comunque dalla Cina si ha ovviamente anche un grande sguardo su quello che succede in America. L'Europa non era mai entrata praticamente nel dibattito, anche nell'ultimo... Nel dibattito Nell'ultimo discorso hanno parlato di Iran, di Medio Oriente, di Cina, relazioni con l'Asia, con Sud America, l'Europa. Ma una volta che entra, per dire Romney, facciamo la fine dell'Italia e della Spagna e della Grecia se votate Obama, no? Bella cartellino da visita abbiamo. Sì, sicuramente bella presentazione. No, dunque la Cina è entrata molto nel dibattito Romney-Obama durante il secondo faccia a faccia e sostanzialmente... Pechino ha tirato poi delle bordate molto pesanti su tutte e due i candidati, nel senso che hanno pubblicato degli editoriali nei quali si diceva smettetela di accusare la Cina per la situazione del vostro paese, e tra l'altro hanno fatto un'analisi anche abbastanza divertente, cioè sono andati a ripescare tutte le affermazioni anticinesi anche dei precedenti candidati, giù fino a Clinton, e poi le hanno confrontate con quello che tutti questi candidati al momento di diventare presidenti hanno fatto con la Cina, quindi c'è un sostanzialmente la stampa cinese ha dimostrato che c'è un grosso digrignare di denti da parte dei candidati alle presidenziali americane al momento delle elezioni e poi insomma quando si arriva alla Casa Bianca l'atteggiamento verso la Cina cambia completamente. La politica degli interessi poi, no? Come dire, a proposito Paolo Del Debbio, non so, Taglia, sì. Antonio già lo saprà, ma senti Paolo, cosa succede in Cina visto che ci sarà il congresso per l'elezione, no? Che succede per quel giorno? Fanno qualche divieto, mette qualche divieto, per esempio non si potranno fare gite scolastiche, non si potranno utilizzare neanche gli aquiloni, tutti gli aeromodellini, perché per carità uno poi usa una bomba, la mette da qualche parte eccetera, non si potranno aprire i finestrini dei taxi perché sennò la gente lancia magari i volantini contro il partito cioè questa è democrazia, così si fa. Queste cose specifiche, diciamo così, queste cose specifiche è la prima volta che le fanno, forse, no? Ma cioè un clima, no, diciamo, proprio liberale intorno alle elezioni in Cina, non è che ma è chiaro. È che hanno un problema, io penso abbastanza serio, non sono un esperto di Cina, ma insomma hanno un problema abbastanza. Loro, mi diceva una persona che viceversa va e viene, non vorrebbero, siccome non vorrebbero cioè delle fuoriuscite, diciamo, di consenso abbastanza plateali, perché questo è un problema che ci comincia ad essere, così come hanno discusso il rinnovo dei contratti rifiutando il minimo tabellare 2 anni fa, che è stata una cosa per la Cina assolutamente, anzi 3 anni fa, mi scuso, assolutamente inedita, insomma, no? Cioè di discutere il contratto, di non accettare l'assunzione se non a certe condizioni, insomma. Sì. Questa, così come questo, allora questo potrebbe riverberarsi ovviamente anche all'interno Ma chissà perché queste regole così stringenti, Antonio, perché cioè, hanno davvero, è tutto così blindato, c'è il timore che ci siano contestazioni, tutto deve procedere in maniera perfetta evidentemente, no? Allora Del Debbio effettivamente ha ragione su questo punto, nel senso che uno dei timori principali è che ci siano delle azioni che possono in qualche modo mettere in imbarazzo questa enorme liturgia di potere che è il 18° congresso del Partito Comunista. Infatti è stata a vedere fra le regole più assurde dal nostro punto di vista che vengono elencate, c'è l'ordine a tutti i tassisti di controllare che ogni passeggero non porti con sé volantini. Dei volantini, ma anche i palloncini che potrebbero essere utilizzati per rifare. Capite? Cioè uno poi lancia i palloncini, va in taxi, poi gonfia, butta fuori i palloncini e via. Speriamo che qualcuno ci pensi anche per l'Italia. Ma per carità, noi ci ridiamo, ma in realtà è una cosa molto. Cioè, si vuole anche un'immagine di un consenso totale, non ci si può permettere un'immagine di un qualcuno. La sbavatura va a decremento dell'immagine del potere assoluto. È chiaro. Vorrei dire una cosa. Antonio. Sì, effettivamente lo stanno cercando di controllare tutto, lo fanno sistematicamente, eccetera. Poi però c'è anche una maniera molto divertente da parte dei cinesi di esprimere forme di dissenso che diventano dei veri e propri sfottò sul web. Quindi si cerca comunque di aggirare la censura in, in maniera molto divertente, si riferisce ai leader con dei nomignoli, quindi non... Anche non per possiamo... aggirare appunto la censura, così se, no, se bloccano tipo sui, su internet la possibilità di digitare alcune parole, si usano dei giochi di parole per, dei giochi di parole per evitare queste censure. Venendo alle cose, italiane, allora Paolo Del Debbio, tu sei un grande esperto anche di comunicazione, allora io devo far ascoltare, beh dai, sì... uno spot come spot, non so se definirlo spot. Alfano su Facebook ha messo una cosa che francamente adesso l'ascoltate se non vi addormentate in 40 secondi, che inizia e finisce con una sigla, ecco, questo è la vabbè, ma sentiamola, non è che posso, sentite, beh, qua è giovane, Ieri due ore di lavoro con i coordinatori regionali del Popolo della Libertà, è un lavoro straordinario quello di mettere in piedi le primarie. Non abbiamo grande esperienza, però pensiamo di farcela. Pensiamo di farcela. Su ogni città insisteranno tanti seggi elettorali e faremo in modo che tantissima gente possa partecipare. Noi crediamo che da lì possa cominciare il rinascimento azzurro, il rinascimento del centrodestra. Intanto comincio a dirlo a voi che mi avete seguito, Paolo, su queste pagine. Paolo, puoi commentare se... sveglia intanto, No, perché poi finisce, attenzione perché c'è una sigla finale, Cioè, nuova, che da quella giornata nascerà. Eccola qua, eccola. No, per carità, poi Berlusconi dice che gli manca un po' il quid, magari, però, ecco. No, allora, Alfano è uno, tra l'altro, è una persona di valore e tutto, ma visto che si parlava di Cina, mi sembrava, diciamo, una comunicazione da un comitato centrale cinese, insomma. Sì, un po' così, no? Vi parlo dall'etere, vi dico questa cosa un po'. Sì, è un po' una cosa così. Non so perché l'ha fatta e qualche valore dovesse avere. No, ma insomma, poi non siamo molto esperti, ma ce la metteremo tutta. Una cosa che Berlusconi, secondo me, se l'ha sentita. Ma come non siamo molto esperti, ce la metteremo tutta, cercheremo di fare il nostro meglio. Non sono messaggi. Noi ce l'abbiamo tutta noi. Infatti, non sono messaggi straordinariamente rassicuranti. Comunque, rientriamo tra un attimo dopo il traffico, perché io ho sentito questa proposta. Tenetevi forte. De Magistris agli interni, Saviano all'istruzione, Ingroia alla giustizia e Grillo Premier. Io ho aggiunto e io in Ghana, ma tra poco ne parliamo. Milan, gentilmente, perché non tocca l'argomento di Pietro, che con quella figura da rubagalline sul report è uscito in una maniera pietosa? Per cortesia, cambiate la sigla di apertura della Miletti Binetti che offre il caffè, perché è un personaggio che proprio sarebbe meglio non menzionare. Primo. Secondo, dovete avere un piglio molto insistente con gli intervistati, specialmente gli uomini politici, consiglieri regionali, ai quali brutalmente dovete dire che sono degli sporchi egoisti, egocentrici, nulla facenti e molto tenenti. L'errore è proprio quello di voler fare carriera politica. Una volta fatto il mandato, una volta fatto quello che deve fare una persona a servizio dei cittadini, deve terminare. Io sono una vecchia bolognese, io non ho i forconi, ma ho tre matterelli perché le bolognesi fanno la pasta. Se qualcuno ne avesse bisogno, due li metto a disposizione. Uno me lo tengo. Se organizzate, chiamatemi. Non potevamo non rimetterla la nostra amica bolognese, Paolo Del Debbio. Attenzione, non ci sono solo i forconi, i matterelli, perché fanno la pasta. Due li mette a disposizione, uno se lo tiene, uno perché non è il caso magari. Il PDM, partito del mattarello. Il partito del mattarello. Siamo con Paolo Del Debbio, che conduce Quinta Colonna su Rete4 lunedì, e con Antonio Taglia, che è corrispondente dell'AGI dalla Cina. Di Pietro e Grillo, il grande amore, anche se vi voglio far sentire Di Pietro nel cioè Grillo, cosa diceva di Di Pietro nel 2007? Lui è un insegnante di procedura penale e fa le lezioni al CEPU. Sarebbe già da vergognarsi così senza dire un cazzo. La notizia clamorosa non è questa. È che il CEPU ha 102 sezioni, diciamo, sedi in Italia, tutte sotto sequestro dalla finanza. Il CEPU è imputato di associazione a delinquere, bancarotta, usura, riciclaggio, e lui ha fondato l'Italia dei Valori in una sede sotto sequestro della finanza del CEPU. Insomma, qui ne parlava in termini non proprio positivi. Poi però di recente sempre Grillo su Di Pietro. E Di Pietro sta facendo, ma te pensi, è un bravo uomo, ma come fai a fare un referendum contro i contributi statali, contro i contributi elettorali? Che se arrivi a fare il referendum, prende 500.000 firme, hai diritto a un contributo statale di 1,5 milioni. Ma stiamo scherzando, qui siamo nella metafisica. Adesso Paolo Del Debbio, Grillo dice: lo vorrei al Quirinale. La mia battutaccia ieri è stata di Di Pietro: vada al Quirinale, ma se in affitto no. Compravendita sì, ma in affitto no. Ma al di là di questo, addirittura al Quirinale, che sta succedendo tra Grillo e Di Pietro secondo te? Ma secondo me sta succedendo che hanno qualche problema ambedue, cioè nel senso che i problemi di Di Pietro sono noti. Ha detto lui stesso, ha detto che siamo al punto zero, bisogna ripartire, cioè tutti questi comprare questi immobili che si è comprato, mi sembra c'era una cinquantina. Sì, lui smentisce, dice ma no, ne ho tre, ne ho quattro, vabbè. Mia moglie è ricca, vabbè, comunque, mia moglie non è mia moglie. Anche comunque c'è un problema, perché se ho visto anche che sono venuti in soccorso i suoi amici storici, vuol dire qualche problema c'è. E Grillo pure, perché io ho avuto in trasmissione, essendo che lui non vuole che vadano in sua intermissione, ho avuto dei fuoriusciti. Ho parlato a lungo con Fabio, insomma, eccetera, eccetera. E mi sono reso conto, in modo proprio preciso, che lui ha grossissimi problemi ormai a tenere il suo popolo, nel senso che, soprattutto quelli, gli attivisti, e visto anche tutta questa vicenda, quella signora che è andata da Floris e come no. Ne parlo alle 8:15, avrò Raffaella Pirini, che è del Movimento 5 Stelle, ci dirà, almeno in radio vengono. Io ho avuto questi fuoriusciti che poi hanno fondato questo partito dei pirati, no? Sì. E lì c'è un problema enorme dentro, perché tra il suo guru e lui, che poi ha fatto di questo marchio una struttura di e-commerce, cioè comunque appunto del marchio 5 Stelle, e insomma secondo me hanno un problema ambedue, quindi cercano in qualche modo di usmarsi un po', come dicono a Milano, per vedere se è possibile fare qualcosa di comune. Sì, in questo momento dei due forse Di Pietro è quello più in difficoltà anche come voti. Vorrei sapere da Antonio Taglia se è una domanda un po' retorica, se un Grillo sarebbe possibile in Cina, cioè c'è qualcuno che in qualche modo, magari in maniera non così irriverente certamente, non sarebbe possibile, però sfida anche la casta della politica costituita? Ma sì, in realtà ci sono moltissimi esempi. Ci sono per esempio questo movimento del Wei Chuan, che è una cosa molto informale, che sono degli avvocati, i quali non sfidano direttamente il partito, però sostanzialmente dicono le leggi ci sono ma non vengono applicate, e quindi poi fanno delle serie di petizioni e di attacchi non frontali, però molto molto pesanti, e contestano il partito proprio sulle... Ma riescano a ottenere visibilità, perché lì si sa, la censura poi interviene subito, oppure hanno un seguito, riescono con canali alternativi magari a farsi conoscere? Allora, lo fanno sia con dei canali alternativi, hanno un certo seguito quando riescono a informare il popolo di quello che fanno, e a volte rischiano grosso, però in generale appunto si tratta di gente che riesce a fermarsi un attimo prima e quindi, conoscendo i meccanismi delle leggi, riescono comunque a fare un'azione anche molto interessante. Insomma, ce la fanno in qualche modo. Io però vorrei lasciarvi con questa notizia, chiedervi un commento su questo. Castellammare di Stabia, siamo lì, e io voglio già farvi sentire, no, la straordinaria canzone Don Raffaele De André, perché cosa è successo a Castellammare di Stabia? Nella Multiservizi, credo, una società che gestisce la raccolta rifiuti, hanno fatto per assenteismo risultano 23.000 ore di pausa caffè. 23.000 ore. Ce n'è uno, Paolo, che ha bevuto un caffè per un'ora e 5 minuti. Ah, proprio. Aveva una pressione a 2.000. No, ma al di là è proprio una pausa caffè di questa, il caffè alla napoletana, no? Quello che è un'ora e 5 minuti. Oh, perché... Oh, casi di assenteismo, la verità è questa, Paola. Io seguo tantissimo Quinta Colonna, però tante volte vorrei dire a tutte quelle persone che intervengono in piazza, che sono molto infervorate, che però siamo anche un po' noi italiani che dovremmo capire, siamo un po' tutti viziosi da questo punto di vista, no? O no? O sbaglio? No, c'è una sorta di... Poi in certi punti del paese magari di più o di meno, e non dico nord e sud perché sono un po' miste le cose, ma c'è indubbiamente una certa indolenza, insomma. Cioè anche noi dovremmo un po' cambiare, mica pensare sempre che siano gli altri quelli che sbagliano. Cioè quando uno legge 23.000 ore di pausa caffè, un assenteismo a livello spaziale da parte di dipendenti, è fuori dalle scatole, infatti. Comunque, per i cittadini di Castellammare, tra l'altro, quantificato €1 milioni di danni per i caffè. Appunto. 23.000 ore di pausa caffè, uno ha bevuto, un impiegato ha fatto una pausa caffè di un'ora e 5 minuti. Ah, buono quel caffè. Buonissimo, vi ringrazio e vi saluto per essere stati con noi. Grazie Paolo Del Debbio, ovviamente l'appuntamento lunedì a Quinta Colonna su Rete 4, e grazie ad Antonio Taglia, che immagino ripartirà per la Cina per assistere all'importante congresso tra circa una settimana, corrispondente dell'AGI dalla Cina. Noi socchiudiamo il bar e ci ritroviamo per la rassegna stampa alle 7:20. Cameriere, questo caffè arriva o no? L'arriva. But please relax. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. E allora eccoci qui, le 7:20, cari ascoltatori, siamo pronti, come avete sentito la nostra cara ascoltatrice che ci ha lasciato un messaggio in segreteria, a leggere i giornali. Vi ricordo che poi più avanti parleremo di Beppe Grillo, il suo diktat contro i talk show, avremo un esponente del Movimento 5 Stelle che ci spiegherà se sia giusto o sbagliato andare in TV. Poi oggi avremo alle 8:30 una puntata nella quale interverrà anche il ministro alla salute Balduzzi, perché ci ha molto colpito, mi ha molto colpito ieri la notizia per la quale al governo non si trovano i soldi, i fondi per sostenere molte persone che soffrono, che sono diversamente abili. Ci sono dei malati molto gravi, malati di SLA che stanno protestando, alcuni hanno fatto lo sciopero della fame. C'è l'Unione Italiana Ciechi, ci sarà ospite il presidente che protesta per i tagli. Insomma, tasse per tutti, ma non si trovano fondi per malati gravi, per associazioni dei diversamente abili. È un paese serio quello che si comporta così? Ne parleremo alle 8:30. Ora i giornali, per l'appunto. È venerdì 2 novembre, intanto uno sguardo ai titoli dei quotidiani. Il Sole 24 Ore apre su Rating 24, sapete che l'iniziativa lanciata qualche tempo fa per dare uno sguardo e monitorare a che punto sono le riforme del governo. Riforme, l'attuazione sale al 17,4%, questo è l'ultimo dato elaborato dal Sole 24 Ore. La vicenda Fiat, il Corriere della Sera: Fiat interviene il governo, Repubblica: la Fiat fermi i licenziamenti, il Messaggero: Fiat alto là del governo, il Secolo XIX: licenziati Fornero, ferma la Fiat. Mentre Pubblico accusa Monti, che mette in prima pagina con il titolo sulla Fiat: il silenzio sugli innocenti, Monti tace, Pomigliano rischia la guerra tra poveri. La Stampa ancora sulle province, il piano di Monti per tagliare le prefetture. Libero: centinaia di posti per chi cerca lavoro, continua l'iniziativa di Libero a segnalare il lavoro che c'è.

dipende, non sempre, perché comunque ho avuto alcuni inviti, non sono andata per motivi di lavoro. Intendevo altri tipi di motivi. Motivi di lavoro, quando sono stata chiamata nelle TV locali e potevo, perché la cosa era più gestibile, sono andata, insomma. Dove non potevo partecipare personalmente, ho dato la mia disponibilità a partecipare. Non so, se la chiama Bruno Vespa, se la chiama Floris, ci va a Ballarò? Federica Salsi ha sbagliato o no andare a Ballarò? No, Federica Salsi ha fatto, penso, bene, tanto poi saranno gli italiani a capire se le è stato dato il giusto spazio oppure no. Lei ha detto cose giuste e quindi pazienza. Bruno Vespa non lo so, mi risulta un po' in disesto, ma è una questione personale. Bruno Vespa un po'... Ma perché avete questo? Cioè, avete questo modo di fare? Cioè, non so, quel giornalista mi è simpatico e quindi magari ci vado. Quello mi è antipatico e quindi no, non ci vado. No, nel senso che da tanti anni si vede, io cerco di non farmi prendere troppo da certo tipo di giornalismo, è una questione mia personale, lo dico anche scherzando, per carità, porta a porta una trasmissione con un'altra, certo che tanti personaggi si misurano, quando anche noi vorremmo andare, chi di noi se la sente di poter andare a portare la voce del Movimento 5 Stelle, andremo. Sì. In ogni caso, io mi ricordo le parole che ho letto del padre di Eluana Englaro e mi hanno sinceramente molto colpito e mi forse rappresentano un po' quello che penso anch'io. Cioè? Perché ha detto che lui aveva deciso di andare a tanti talk show che pure lo avrebbero massacrato e lui ne era pienamente conscio, ma questo serviva per poter far sapere alla gente del dramma della sua famiglia, in modo che questa fosse libera di scegliere in coscienza, anche se lo avessero massacrato. Senta, però c'è stata un po', lei si riconosce in questo, però senta, questa frase di Beppe Grillo sul punto G che ti dà l'orgasmo nei salotti dei talk show, è chiaro che è riferita al fatto che è intervenuta una rappresentante, una donna, le è piaciuto? Assolutamente no, non ho nessun problema a dirlo in pubblico, perché penso che sarebbe un'offesa per il genere umano pensare che quella sia una battuta di buon gusto. Il fatto che l'abbia rivolta contro una delle sue consiglieri, fra l'altro persona in gamba, battagliera, e che continuerà a portare avanti con coscienza i principi del movimento, è ancora peggiore, ma d'altra parte il movimento non è solo fatto dall'esternazione di Beppe Grillo, pur essendo Beppe Grillo la cassa di risonanza. Per cui questa cosa è veramente di cattivo gusto, se aveva da dissentire, come tanto sapevamo già che aveva, insomma, poteva farlo in termini molto più educati. Ma lei è un po' sa che già queste parole magari le creeranno qualche problema, ma so che lei ride, so che lei ha già avuto qualche problema, identificata da qualcuno come una sorta di dissidente all'interno del Movimento 5 Stelle. Sì, sono stata identificata come dissidente, di fatto portiamo una voce che non è, diciamo, che è autonoma. Portiamo chi? Perché lei... Io e qualcun altro che anche sul web si vede che non è sempre d'accordo con certe uscite ed esternazioni, con alcune decisioni prese unilateralmente da Grillo e Casaleggio, e fra l'altro appunto qui sul post anche a Di Pietro, mi ha fatto sorridere perché ha detto che Di Pietro, insomma, fra le sue poche qualità, fra virgolette, c'è il fatto di essere un po' testone, decide tutto da solo, ha detto, ma si vede che Grillo si sente più democratico perché decide assieme a Casaleggio. Perché lei vede, ma lei come adesso ne parliamo un attimo di Grillo e Di Pietro, ma come lo vede un po' Grillo e anche Casaleggio, come un po' dei due dittatorelli che da sopra decidono tutto? Diciamo che con noi non condividono molto, e il fatto che non, appunto, come difetto Di Pietro trova che non ascolta nessuno, il fatto che lui ascolti solo Casaleggio non è molto piacevole per noi. Ma lei lo conosce Casaleggio? Le ha fatto l'esame? No, Casaleggio. Non lo conosco, l'ho solo incontrato una volta e mi sembrava un pesce fuor d'acqua in mezzo alle nostre facce, devo dire la verità. Perché è un pesce fuor d'acqua? Sembra quello che decide tutta la strategia. Però alcune cose può essere, no, proprio come persona si vedeva che era non so, alle volte l'abito fa il monaco, può anche essere vero, non so come dire. È un guru, e, è un guru. È un guru, però io ogni tanto dico, se sei un guru del web potresti fare anche un sito che funziona meglio, già che io sono poco tecnologica, quindi ho bisogno di una tecnologia che supporti le persone che non la sanno usare, perché quello, il genio di chi fa informatica. Ma lei è sicura di essere del Movimento 5 Stelle? Sì, abbiamo chiamato Raffaella certo. Pirini del Movimento 5 Stelle, no? Perché... Ma certo, perché essere di un movimento che porta avanti dei principi, dei bisogni con coerenza e onestà non vuol dire ritenere le persone che comunque sono molto in vista, influenti, sempre nel giusto e senza possibilità di muovere delle obiezioni per far... Per carità, quello succede in Corea del Nord, ecco. Benissimo, quindi siccome ancora non ci siamo, anche se come libertà di qualsiasi cosa l'Italia non si pone certo ai primi posti, io sono fortemente convinta, come tutti all'interno del movimento, che i principi del movimento sono... giustissimi e sono forse l'unica speranza rimasta agli italiani, senza dire che noi siamo i più bravi, ma proprio il fatto di portare avanti questi temi è di fondamentale importanza, quindi noi abbiamo l'obbligo di essere il più corretti possibile nei confronti di tutti. Senta, per mantenere la fiducia. E questo matrimonio politico con Di Pietro effettivamente ha colpito molto, di dire Di Pietro al Quirinale la persona più che è stata più coerente negli ultimi tempi, come lo giudica lei? Ma dal punto di vista politico mi chiedo ancora il significato, ha sentito il bisogno di dire questo, sicuramente all'interno del Parlamento che ha cercato ogni tanto di muovere obiezioni, ma appunto nei confronti di Berlusconi, insomma, è stato Di Pietro. Per il resto, sui temi che sono fondanti per il movimento, rispetto per l'ambiente, la giustizia nella spesa sociale, se andiamo a vedere appunto la non lotta nei confronti della TAV, G8, Ponte di Messina, inceneritori, dove prima di essere eletto sul blog di Grillo promise che gli inceneritori andavano banditi, appena eletto disse che andavano bene. Mi chiedo se questa è la coerenza di una persona e se dobbiamo scegliere un capo dello Stato solo perché si è battuto contro Berlusconi, poi dopo uno può anche dire c'è solo lui che ha fatto qualcosa, e questo posso sicuramente dargli ragione. Io aspetterei di vedere così, cosa succede, che cosa aveva voluto dire con queste cose. Senta, ma lei, tornando invece alla questione TV, Federica Salsi so che la conosce anche personalmente, come sta vivendo questo momento, questa uscita? Federica è una persona molto forte, serena, l'ho sentita ieri per farle un saluto, e è tranquilla nel senso che, ma sì, è un attacco alla persona, però si va avanti in quello in cui crediamo, che è quello che ho ripetuto finora, fino forse al vostro sfinimento, che sono i principi. Mi spieghi un'ultima cosa, che cos'è il PS che ogni tanto manda a qualcuno Beppe Grillo? Ho letto questa cosa, cioè quando vuole far togliere il movimento, il simbolo, dell'uso del simbolo Movimento 5 Stelle a qualcuno, cioè vuole espellerlo, arriva un PS che vuol dire, che vuol dire in sigla? Sinceramente di PS conoscerei solo post scritto, quindi quello penso sia, semplicemente questa è l'importanza che dà alle persone che vengono eliminate normalmente in un post che parla di tutt'altro, e quello è il metodo di comunicazione con i propri... cioè lui fa un post in cui parla di un'altra cosa, poi magari scrive PS, esatto. Raffaella Pirini... Esatto, benissimo. È fuori dal Movimento 5 Stelle di fretta all'uso del logo. Potrebbe essere, glielo chiesi anche una volta se volevo farlo, visto che avevo espresso alcuni miei dubbi e mie perplessità, mi ha detto che avrebbe potuto farlo, quindi sto ancora aspettando, non è che sono immune sicuramente. Ah, cioè lei ha parlato con Beppe Grillo? No, ma tempo fa, in lezioni con Macchio. E gli ha chiesto, e gli ha detto, potresti espellermi? Sì, più o meno i termini erano questi, e lui ha detto potrebbe. No, ha detto devo vedere il post domani, potrebbe. Cioè, che cosa aveva combinato? Cosa aveva combinato? Ma è un sistema in cui, cioè, pendete da un PS che arriva da Beppe Grillo, insomma, mi inquieta un po', questo. È un lavoro certosino, insomma, sono convinta che la nostra battaglia culturale arriverà dove deve arrivare, perché il movimento, la rete che si è creata, ma non la rete internet, tutto il resto, insomma, la rete di lavoro che si è creata è incredibile, quindi questo alla fine avrà la forza di sistemare le cose che ancora non vanno. E comunque sì, dipendiamo un po' da questi PS, alcuni sono state decisioni, diciamo, in seguito a ragionamenti anche fatti con la base. Questa è stata una delle forse poche volte in cui c'è stato modo di dialogare, insomma, certe persone sono viste ritirare il logo perché comunque non rispondevano veramente ai principi di onestà e di città del movimento. Altre volte invece sono stati fatti dei PS sulla base di timori, illazioni o comunque giustificazioni affrettate e assolutamente non corrette. Però io adesso spero per continuare il mio lavoro, lo continuerò comunque perché è quello in cui credo. E quindi insomma vedremo se Grillo alla fine ascolterà anche più di una persona. Diremo a Bruno Vespa di invitarla, così poi la metteremo di fronte a questa scelta drammatica. La ringrazio intanto. Buona giornata, grazie. Raffaella Pirini è consigliere comunale a Forlì nella lista civica destinazione Forlì, fa parte del Movimento 5 Stelle, ma avete sentito, non ha risparmiato anche critiche sia a Grillo sia soprattutto a Casaleggio. Allora noi ci fermiamo qualche minuto, poi parleremo e vorrei anche il vostro contributo all'800240024. Parliamo di disabilità o di persone che sono gravemente malate, che in questo momento stanno protestando. Allora noi ci vogliamo porre una domanda: che paese è quello in cui dei malati di SLA, che è una malattia degenerativa molto molto grave, arrivano a scioperare, a fare lo sciopero della fame e arrivano a minacciare delle scene e delle proteste clamorose perché dicono sono stati tolti i finanziamenti per seguire noi che abbiamo gravissimi problemi di salute. Che paese è quello in cui l'Unione Italiana Ciechi denuncia ci sono stati tolti molti fondi alla disabilità e quindi facciamo fatica a mantenere in piedi le nostre attività di sostegno? Che paese è quello in cui molti alunni disabili non hanno ancora i loro insegnanti di sostegno perché non ci sono i soldi per rinnovare i contratti? È vero, è il momento di fare sacrifici, ma ci vogliamo chiedere che paese sia questo e se è giusto che anche le persone in difficoltà si debbano riscontrare queste problematiche. Lo facciamo tra poco, 800240024, ci sarà anche il ministro della salute Balduzzi e alcuni esponenti di associazioni che vogliono porre queste domande al governo. Ci siamo posti questa domanda e vogliamo porre questa domanda: che paese è quello in cui dei malati e disabili gravi e gravissimi, come alcuni malati di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, una malattia molto molto grave, arrivano a minacciare azioni estreme? Perché? Perché dicono è stato tolto uno stanziamento di 658 milioni di euro che era stato dato a luglio e che poi nella spending review è stato fatto entrare una disponibilità più generica per il fondo per il sociale, e ora loro denunciano non abbiamo più da mantenere e da sostenere anche economicamente i nostri familiari. Che paese è quello in cui l'Unione Italiana Ciechi dice si sono tolti fondi e non chiediamo la carità ma chiediamo aiuti per sostenere persone diversamente abili? Allora di questo vogliamo parlare, lo facciamo con due ospiti che rappresentano associazioni. Intanto il presidente dell'Unione Italiana Ciechi Tommaso Daniele, che saluto. Buongiorno presidente, benvenuto. Buongiorno. Così come saluto Mariangela Lamanna, che è vicepresidente del comitato 16 novembre. Buongiorno signora Lamanna. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E se non sbaglio ha una sorella, Giusi, che è affetta da SLA. Sì, precisamente. Vi ascolta e lo ringrazio per essere con noi il ministro alla salute Renato Balduzzi. Buongiorno ministro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, signora Lamanna, partirei da lei. Cos'è questo comitato 16 novembre? È un gruppo di ammalati di SLA e loro familiari che il 16 novembre 2010 si riunirono e con forza chiesero attenzione al governo e riuscirono in quella data a portare a casa un fondo specifico per la SLA. di 100 milioni, un contributo straordinario, un po' come quelli che effettua il governo in caso di calamità naturali, quindi un contributo a termine. E perché ora, i familiari dicono, voi familiari dite attenzione, siamo pronti, c'è stato anche uno sciopero della fame. Sciopero della fame perché il problema, intanto quel contributo è a termine, come le dicevo, per cui si verificherà che una volta terminati quei soldi, se mai riusciamo a farli arrivare a casa degli ammalati, bisogna anche dire questo, perché le regioni, tutte le regioni italiane, sono già in possesso dell'intera quota da un anno almeno e non hanno provveduto a trasmettere gli assegni di sostegno alle famiglie. Questa è un'altra denuncia gravissima che bisogna fare, per la quale ci stiamo attivando ormai da mesi. A me ha molto colpito, signora Lamanna, leggere questa frase: siamo pronti ad azioni estreme. C'è stato appunto anche uno sciopero della fame dei malati di SLA. Cioè, veramente rifaccio la domanda: che paese è quello in cui persone che hanno gravi difficoltà si spingono a dover fare questi gesti? Sicuramente non è un paese per disabili, sicuramente la disabilità è un lusso, è uno di quei lussi che le persone normali non possono permettersi, pensi un po' che siamo all'assurdo veramente, cioè la disabilità oggi come oggi è un lusso perché costringe le famiglie a lasciare il lavoro per assistere i propri cari, vendersi tutto ciò che si ha per garantire un'assistenza vigile H24, cioè non l'assistenza sto vicino al tuo letto, punto, quando hai bisogno di essere lavato ti lavo e quando ti devo far mangiare. No, qui parliamo di manovre tecniche che devono essere fatte durante la giornata senza poter essere preventivate, e cioè ad esempio la terapia broncoaspirazione che salva la vita a queste persone. Parliamo di movimenti continui perché queste persone sono allettate, paralizzate, mute, cioè guardi, un impegno mi creda asfissiante e alienante. E in questo dice vi sentite un pochino abbandonati. Allora, prima di andare da Tommaso Daniele, vorrei sentire Ministro Balduzzi, lei, c'è da dire che insieme al Ministro Fornero siete andati anche un paio di giorni fa a trovare il comitato 16 novembre, però le chiedo questo, partirei da quello che è successo in Consiglio dei Ministri, se ce lo può rivelare, perché si è parlato di anche uno scontro tra lei, il Ministro Fornero da una parte, o meglio una dialettica, diciamo così, e il ministro Grilli e Monti che dicono dall'altra parte non ci sono i fondi. Corrisponde al vero quello che ho letto su Repubblica? Lei sa benissimo che non è mio costume andare a raccontare ciò che succede in Consiglio dei Ministri, credo che dovrebbe essere proprio il costume di tutti anche di non chiederlo, perché le discussioni in Consiglio dei Ministri hanno evidentemente una loro riservatezza. Beh, però Ministro, faccio il giornalista, non posso non farle questa domanda. E io faccio il Ministro e non posso non darle questa risposta da questo punto di vista. Aggiungo una cosa che ho letto anch'io con i resoconti giornalistici, si riferivano ad una riunione del Consiglio dei Ministri a cui io non ero presente perché ero in Senato, obbligatoriamente in Senato per la fase finale della conversione in legge del decreto in salute, quindi quella specifica riunione del Consiglio dei Ministri a cui si riferisce lei, io non ero presente, ma comunque non cambierebbe molto la mia risposta. Qui non è un problema di, chiaramente nel Consiglio dei Ministri come in ogni organo collegiale c'è un confronto tra diverse posizioni che non sono, nel caso di specie, posizioni tra chi è favorevole ad aiutare la disabilità e tra chi non è favorevole, perché evidentemente siamo tutti favorevoli. È una questione di fondi soprattutto. Il problema è quello della coperta, che indubbiamente ha delle dimensioni che non sempre sono in grado di far fronte a tutte le richieste, però il criterio, e questo è quello che il Consiglio dei Ministri ha unanimemente accolto, il criterio è quello di andare a occuparsi delle esigenze e delle richieste più gravi, dei bisogni più seri. E dunque, giusto per mettere esattamente le cose come stanno, attualmente è vigente, perché si tratta di una norma della cosiddetta spending review, è vigente una norma della spending review che prevede la destinazione prioritaria alle esigenze della non autosufficienza, compresa la SLA, di un certo fondo, 658 milioni, sì. Ciò che ha allarmato le organizzazioni di riferimento, i malati e i loro familiari, è la presenza nel disegno di legge di stabilità di una disposizione che trasportava questi fondi, cioè portava a 27 milioni il fondo di 658 e faceva riconfluire in un fondo più grande. Sì, esatto. Il timore che si perdano quei soldi. A una destinazione con destinazioni più allargate, con il timore di vedere appunto assottigliate queste risorse destinate. È un timore concreto o lei può rassicurare? È un timore che va fugato, perché il Consiglio dei Ministri ha proprio valutato e approfondito e definito la necessità di ritagliare dentro questo fondo più largo una quota specifica e dedicata. Adesso nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, in sede di conversione, in sede di approvazione del disegno di legge di stabilità, sarà precisata la cifra, sì. Però quello che io posso dire, abbiamo già detto d'altra parte agli interessati, sia io sia il ministro Fornero, quello che possiamo dire è che questo è qualcosa di più di un impegno, cioè qualcosa che il governo ha già deliberato. Sì, sul quale lei vuole rassicurare. Mi faccia sentire, ministro, gentilmente, il presidente dell'Unione Italiana Cechi, Tommaso Daniele. Recentemente, presidente, avevo letto un articolo di Libero nel quale il titolo era un po' brutale, cioè per trovare fondi da dare al Maxi, al Museo di Roma, a cui è stata nominata l'onorevole Melandri, sono stati tolti soldi ai cechi. Ecco, il titolo era brutale, ma voi avete delle rimostranze per quel che riguarda i fondi destinati a voi che sono stati tolti? Ma senz'altro, perché noi siamo erogatori di servizi ai ciechi e agli ipovedenti e facciamo un lavoro per conto dello Stato, delle leggi ci hanno attribuito questo compito e hanno finanziato questo compito nostro. Dall'anno scorso i contributi dati a noi sono stati tagliati del 98%, ripeto il 98%, quindi mettendoci nella condizione di dover sospendere e in qualche caso ridurre questi servizi che vanno per l'assistenza scolastica, l'assistenza lavorativa, la fornitura di libri, di giornali, la formazione professionale, la riabilitazione, la ricerca scientifica. Tutto questo si è bloccato e abbiamo dovuto licenziare o mettere in cassa integrazione il nostro personale. Stiamo reclamando ormai dall'anno scorso il ripristino di questi contributi, ma ancora non abbiamo nessuna rassicurazione. Su questo, ministro, può rassicurare anche il 98% è una cifra immensa di taglio che ci dice il presidente Daniele. Ministro Balduzzi. È un azzeramento. Posso dire che sicuramente in questi tempi a tutti, quindi anche a quelle strutture che hanno un compito importante per assicurare la possibilità di una vita dignitosa a chi è portatore di una disabilità, specialmente quando è grave, a tutti è chiesto di fare una propria spending review, una propria revisione della spesa. È chiesto alle famiglie, a ciascuno di noi, è chiesto alle strutture pubbliche, alle strutture private, è chiesto a tutti. Ciò detto, evidentemente un conto è fare una spending review, altro conto è non disporre più del necessario neanche per poter rivedere la propria spesa. Però ministro, è un momento di sacrifici, questo sì, ma faccio la domanda anche a lei: che paese è quello in cui dei malati di SLA in una malattia molto grave arrivano a dire siamo pronti a gesti estremi? Secondo me, indipendentemente, non è una critica alle politiche di governo, ma è un paese che mi preoccupa un po'. Un paese che vede un malato di SLA paralizzato nel suo letto e dire sono pronto a fare un gesto estremo per portare avanti i miei diritti. È un paese nel quale giustamente l'ammalato di SLA si è preoccupato, ma le cose stanno nei termini in cui ho chiarito. Quindi la norma vigente già diciamo, rassicurava, la norma futura, la rassicurazione l'ho data nell'intervento precedente. Mi preoccupa anche la difficoltà, una volta assunta la decisione, quello che veniva rappresentato dalla vicepresidente Lamanna, una volta assunta la decisione di arrivare poi in tempi rapidi a destinazione, ecco, perché le decisioni, tornando alla SLA, sono state, alle gravi disabilità sono state prese, ma appunto c'è anche il problema di riuscire ad attuarle, ad applicarle. Io posso solo assicurare che sia per quanto riguarda il Ministero delle Politiche Sociali, sia per quanto riguarda il Ministero della Salute. Ma che tipo di problemi sono? Anche su questo. Ma problemi burocratici, non capisco quali problemi di attuazione ci sono, Ministro. Sono problemi di passaggio e di attuazione amministrativa, che sono problemi generali nel nostro paese. Noi abbiamo deliberato in più occasioni come governo delle misure di semplificazione, come del resto anche precedenti governi avevano fatto. Noi abbiamo dedicato un pochino più di tempo su questo, perché era una delle grandi questioni che ci poneva l'Unione Europea e che noi avvertivamo come importanti, ecco, di riuscire ad avere una macchina amministrativa ai vari livelli più efficiente. L'autonomia e il decentramento non sono cose brutte, sono cose molto belle, sono cose che fanno la civiltà e la ricchezza di un paese, purché evidentemente poi ci sia fluidità nelle relazioni. No, ma è chiaro, guardi, devo dare le informazioni sul traffico, voglio ripartire da qui, poi da Mariangela Lamanna, Tommaso Daniele, insieme al ministro Renato Balduzzi. Insomma, anche l'idea che mi spaventa ancora di più, che una burocrazia possa rallentare, una volta che c'è la rassicurazione, i fondi ci sono, possa rallentare poi l'esecutività di un provvedimento. Siamo con il ministro della Salute Renato Balduzzi e i rappresentanti di due associazioni, Tommaso Daniele, presidente dell'Unione Italiana Ciechi, e Mariangela Lamanna, da cui voglio tornare, vicepresidente del comitato 16 novembre che riunisce una serie di malati di SLA. Ha sentito signora Lamanna, intanto le rassicurazioni del ministro di ai soldi ci sono, semmai è una questione burocratica e di difficoltà di far arrivare a destinazione tutto questo. Lei è rassicurata dalle parole del ministro? Guardi, io le dico sinceramente, ero rassicurata anche prima. Non credo che due ministri si muovano per venire a fare una visita di cortesia ai rappresentanti di un'associazione che ha visto impegnati oltre 70 ammalati in uno sciopero della fame per una settimana. Quindi ci siamo guardati in faccia, i ministri si sono impegnati, per cui questa cosa per noi era scontata. Insomma, abbiamo riconosciuto innanzitutto la grande umanità di queste persone e abbiamo riconosciuto l'impegno che hanno ufficialmente preso guardandoci in faccia, su questo non abbiamo alcun dubbio. Probabilmente e sicuramente bisogna, noi non attendevamo i due ministri che venissero qui da noi con la valigetta e i soldi in tasca. Questo ci mancherebbe. Voglio dire, forse qualcuno pensava questo. Ci sono sicuramente dei passaggi e c'è questa burocrazia che ci fa molto male, perché nel frattempo noi continuiamo a perdere persone care, e su quello noi vogliamo proprio dare un input grandissimo. Noi vogliamo festeggiare il 16 novembre 2012, il secondo anno di attività a favore di tutte le patologie altamente invalidanti, non solo la SLA. La SLA è sicuramente la peggiore, ma ce ne sono altrettante di gran lunga impegnative, i cerebrolesi, gli stati vegetativi, i comatosi, le Duchenne, le SMA, quindi malattie che impegnano e fiaccano le famiglie. Invitiamo pertanto questo governo a darsi una mossa davvero. Probabilmente la difficoltà è nel dire il nome, però Catricalà l'abbiamo imparato già tutti quanti, quindi il governo faccia presto, perché le nostre famiglie hanno bisogno di aiuto subito. Per togliere questa burocrazia. Dal presidente Daniele, ha sentito il ministro Balduzzi dire, vero, i tagli sono stati importanti, ma la spending review c'è per tutti, con il rispetto ovviamente delle esigenze della disabilità, ma è un momento in cui bisogna fare sacrifici, presidente Daniele. Non è corretto, perché lo Stato non può dire a un'organizzazione di erogare dei servizi e poi non finanziarli. Tra l'altro queste leggi risalgono a 15 anni fa, 20 anni fa, quindi hanno perduto il loro potere d'acquisto, quindi queste somme non sono state mai aggiornate. Questo significa impedirci di fare il nostro lavoro per conto dello Stato, ripeto. La nostra è un'organizzazione vigilata dalla Corte dei Conti, dalla Presidente del Consiglio, quindi i nostri bilanci sono trasparenti, quindi non possiamo essere assimilati a altre organizzazioni che non hanno questi compiti e non hanno questo controllo. Voi chiedete anche uno sforzo economico in più, però di questi tempi, come ben sa, non è facile. Ma nessuna associazione ha avuto un taglio del 98%. Tagliare un contributo del 98% significa smettete di fare il vostro lavoro. Quindi io affido questo messaggio al Ministro affinché ne parli al Ministro dell'Economia. L'anno scorso ha rimediato attraverso un contributo del Fondo Letta. Mi auguro che anche per quest'anno perlomeno si possa tamponare la situazione. Siamo costretti a licenziare una quarantina di persone. Le abbiamo messe in cassa integrazione, ma fino a quando potrà durare? Insomma, questo è l'appello che lei fa al Ministro. Ministro, io ho tre minuti, mi faccia fare invece due domande, perché è stato approvato in via definitiva un decreto importante, definito decreto Balduzzi, proprio il suo nome, in questi giorni. Sono due gli aspetti, ce ne sarebbero tanti, ma le faccio due domande su due aspetti. Il primo, i medici, il rapporto medico-paziente, voi volete più umanizzarlo e pensate di avere anche questa idea dei medici 24 ore su 24, ma è davvero fattibile o è una chimera? Come si può realizzare, Ministro? Alcuni territori è già realtà, quindi vuol dire che è fattibile. Il nostro impegno è quello di renderlo generalizzato dappertutto, perché queste cose non possono essere patrimonio di alcuni territori e non di altri. Allora già alcune norme erano presenti, noi le abbiamo richiamate, abbiamo dato una tempistica più certa. Per la parte che riguarda una migliore collaborazione tra medici di famiglia, già la convenzione vigente mette dei fondi e quindi non c'è un problema di risorse. Per la parte riguardanti, diciamo, gli ambulatori, alternativa per le situazioni meno gravi all'ospedale, quindi un lavoro sul territorio che completi la rete ospedaliera, questo deve essere evidentemente collegato all'interno della ristrutturazione della rete ospedaliera. Qui c'è un problema di attuazione, io ho già iniziato evidentemente, per quanto di mia competenza, i passi per l'attuazione. Io credo che, siccome tutti dicono che questa riforma ci voleva, è importante, che la medicina di famiglia è la base di tutto, ma che perché lo sia davvero deve essere organizzato in modo tale che ciascuno di noi senta davvero che questo è così, che è la base di tutto, e non vada invece a cercare altre soluzioni quando non ce n'è bisogno, se tutti quanti, condividendo questo, diamo una mano, l'alleanza può essere. L'altro aspetto è questo: è saltata invece, a me ha molto colpito questo. Io vivo a Milano, una grande città, e un tempo proliferavano ogni due per due i cosiddetti, diciamolo francamente, i massaggi cinesi, questi negozi. Adesso ogni due per due nasce un negozio di gioco d'azzardo legalizzato. Ne stanno nascendo, spuntando come funghi. Lei ha provato a mettere una stretta, questa stretta non è passata. È un tema molto, molto serio. Lei teme che su questo si possa arrivare a dei problemi sociali notevoli? Intanto il decreto legge convertito e anche su questo punto con alcune disposizioni che hanno precisato meglio l'intervento, quindi divieto di pubblicità, tutela dei minori, ha aperto un discorso, ha aperto una finestra. Noi abbiamo fatto, per ragioni legittime e importanti, per non consegnare alla malavita organizzata settori interi del gioco. Il gioco è una dimensione della vita umana, il problema è quando diventa la sola dimensione o una ossessione. Ecco, allora noi abbiamo intanto cominciato ad aprire questa finestra, a mettere delle norme più severe. Io personalmente sarei andato oltre. È saltata la stretta, quella della minima distanza da scuole e ospedali, lei la voleva. Però quello che non è che è saldata, è organizzata diversamente, sì. Invece che essere una norma rigida è il frutto di una collaborazione e di un rapporto. Per la prima volta che è scritto in una norma legislativa statale tra l'amministrazione a cui certo. è affidato il compito di controllare questa la vigenza, l'agenzia dei motori e i comuni, le collettività interessate. Però dice, lei sarebbe andato anche oltre. Ministro, mi scusi, ma la devo interrompere qui, altrimenti non sforo. Ringrazio davvero tutti. Ci troviamo lunedì alle 6.30.